A Rum. I Romani. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum. Sono stati sconfitti i romani. Fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Nel paese limitrofo, ma poi, dopo essere stati vinti, saranno vincitori. Fi bid'i sinin. Lillahi l'amru min qablu wa min ba'd. Wa yawma idhi yafrahu l'mu'minun. Tra meno di 10 anni appartiene ad Allah il destino del passato e del futuro, e in quel giorno i credenti si rallegreranno. Bi nasrillah yansuru man yasha wa huwa al-azizur rahim. Dell'aiuto di Allah, egli aiuta chi vuole, egli è l'eccelso, il misericordioso. Wa'dallah la yukhlifullahu wa'dahu walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Promessa di Allah. Allah non manca la sua promessa, ma la maggior parte degli uomini non sa. Ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Essi conoscono solo l'apparenza della vita terrena e non si curano affatto dell'altra vita. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ. Non hanno riflettuto in loro stessi? Allah ha creato i cieli e la terra e tutto ciò che vi è fra mezzo, secondo verità e per un termine stabilito. Molti uomini però non credono nell'incontro con il loro Signore. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءُوا جاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Non hanno forse viaggiato sulla terra e visto quel che è accaduto a coloro che li hanno preceduti? Erano più forti di loro e avevano coltivato e popolato la terra più di quanto essi non l'abbiano fatto. Giunsero con prove evidenti i messaggeri della loro gente. Non fu Allah a far loro torto, furono essi a far torto a se stessi. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. E fu triste il destino di quelli che fecero il male, smentirono i segni di Allah e li schernirono. Allah yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu thumma ilayhi turja'un. È Allah che dà inizio alla creazione e la reitera. Quindi a Lui sarete ricondotti. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. Il giorno in cui si leverà l'ora, saranno disperati i colpevoli. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. E non avranno più intercessori tra coloro che associavano ad Allah, ma rinnegheranno le loro stesse divinità. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. E il giorno in cui giungerà l'ora, in quel giorno verranno separati. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. Coloro che avranno creduto e compiuto il bene gioiranno in un prato fiorito. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. Mentre coloro che saranno stati miscredenti e avranno tacciato di menzogne i nostri segni e l'incontro nell'altra vita, saranno condotti al castigo. فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ. Rendete gloria ad Allah, alla sera e al mattino. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. A lui la lode nei cieli e sulla terra, durante la notte e quando il giorno comincia a declinare. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. Dal morto trae il vivo e dal vivo trae il morto e ridà vita alla terra che già era morta. Così vi si farà risorgere. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. Fa parte dei suoi segni l'avervi creati dalla polvere, ed eccovi uomini che si distribuiscono sulla terra. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Fa parte dei suoi segni l'aver creato da voi, per voi, delle spose affinché riposiate presso di loro, e ha stabilito tra voi amore e tenerezza. Ecco davvero dei segni per coloro che riflettono. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إن في ذلك لآيات للعالمين. E fan parte dei suoi segni la creazione dei cieli e della terra, la varietà dei vostri idiomi e dei vostri colori. In ciò vi sono segni per coloro che sanno. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ E fan parte dei suoi segni il sonno della notte e del giorno e la vostra ricerca della sua grazia. Ecco davvero dei segni per coloro che sentono. وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. E fa parte dei suoi segni farvi scorgere il lampo con timore e brama e far scendere dal cielo l'acqua con la quale ridà vita alla terra che già era morta. Ecco davvero segni per coloro che ragionano. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ E fa parte dei suoi segni che il cielo e la terra si tengan ritti per ordine suo. Quando poi vi chiamerà ad un solo richiamo, ecco che sorgerete dalle tombe. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ. Appartengono a lui tutti quelli che sono nei cieli e sulla terra, tutti gli obbediscono. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Egli è colui che inizia la creazione e la reitera, e ciò gli è facile. A lui appartiene la similitudine più sublime nei cieli e sulla terra. E lui l'eccelso, il saggio. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. Da voi stessi trae una similitudine. Ci sono, tra gli schiavi che possedete, alcuni che fate vostri soci al pari in ciò che Allah vi ha concesso? Li temete forse quanto vi temete a vicenda? Così esplicitiamo i nostri segni per coloro che ragionano. اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ. Gli ingiusti cedono invece alle loro passioni senza sapere. Chi può guidare colui che Allah allontana? Essi non avranno chi li soccorra. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Rivolgi il tuo volto alla religione come puro monoteista, natura originaria che Allah ha connaturato agli uomini. Non c'è cambiamento nella creazione di Allah. Ecco la vera religione. Ma la maggior parte degli uomini non sa. Munibina ilayhi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal mushrikin. Ritornate a lui, temetelo, assolvete all'orazione e non siate associatori. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. E neppure siate tra coloro che hanno scisso la loro religione e hanno formato sette, ognuna delle quali è tronfia di quello che afferma. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. Quando un male colpisce gli uomini, invocano il loro Signore e tornano a Lui. Quando poi li gratifica con una misericordia che proviene da Lui, alcuni di loro li attribuiscono consoci. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. Così da rinnegare quello che abbiamo dato loro. Godete dunque, presto saprete. أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ. Abbiamo forse fatto scendere su di loro un'autorità che dia loro ragione di ciò che li associano? وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. Quando gratifichiamo gli uomini di una misericordia, se ne rallegrano. Se poi li coglie una disgrazia per ciò che le loro mani hanno perpetrato, ecco che se ne disperano. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Non hanno visto che Allah dona con larghezza a chi vuole e lesina anche? Questi sono segni per coloro che credono. فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. Riconosci il loro diritto al parente, al povero e al viandante diseredato. Questo è il bene per coloro che bramano il volto di Allah. Questi sono coloro che prospereranno. وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زكاة تريدون وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. Ciò che concedete in usura, affinché aumenti a detrimento dei beni altrui, non li aumenta affatto presso Allah. Quello che invece date in elemosina bramando il volto di Allah, ecco quel che raddoppierà. Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. Allah è colui che vi ha creati, poi vi ha nutriti, poi vi darà la morte, quindi vi darà la vita. C'è una delle vostre divinità che faccia qualcuna di queste cose? Gloria a Lui, Egli è ben più alto di ciò che gli associano. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. La corruzione è apparsa sulla terra e nel mare a causa di ciò che hanno commesso le mani degli uomini, affinché Allah faccia gustare parte di quello che hanno fatto. Forse ritorneranno sui loro passi? قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ. Di, percorrete la terra e considerate ciò che è avvenuto a coloro che vi hanno preceduto. La maggior parte di loro erano associatori. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. Rivolgi il tuo volto alla vera religione prima che da Allah venga un giorno che non sarà possibile respingere. In quel giorno saranno separati. Man kafara fa'alayhi kufru wa man 'amila salihan fali anfusihim yamhadun. Chi sarà stato miscredente, la sua miscredenza gli si rivolgerà contro. Quanto a chi avrà compiuto il bene, è per se stesso che avrà preparato. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. Così Allah ricompenserà con la sua grazia coloro che hanno creduto e compiuto il bene. In verità, egli non ama i miscredenti. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. E fa parte dei suoi segni mandare i venti come nunzi per farvi gustare la sua misericordia e far navigare la nave al suo comando, sì che possiate procurarvi la sua grazia. Forse sarete riconoscenti. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. Già mandammo prima di te messaggeri ai loro popoli, e vennero loro con prove evidenti. Poi ci vendicammo di quelli che commettevano crimini. Nostra cura è soccorrere i credenti. Allahu alladhi yursilu ar-riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuhu fis-samaa'i kayfa yasha'u wa yaj'aluhu kisafa fatara al-wadqa yakhruju min khilalihi. فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. Allah è colui che invia i venti che sollevano una nuvola, la distende poi nel cielo come vuole e la frantuma, e vedi allora le gocce uscire dai suoi recessi. Quando poi ha fatto sì che cadano su chi vuole tra i suoi servitori, questi ne traggono lieta novella. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ. Anche se, prima che cadessero su di loro, erano disperati. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. Considera le tracce della misericordia di Allah, come egli ridà la vita ad una terra dopo che era morta. Egli è colui che fa rivivere i morti, egli è onnipotente. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ. Se inviassimo loro un vento che ingiallisse le coltivazioni, rimarrebbero ingrati. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. Tu non potrai far sì che sentano i morti o far sì che i sordi sentano il richiamo quando ti volgono le spalle. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ. Non sei tu a guidare i ciechi dal loro obnubilamento. Solo potrai far udire quelli che credono nei nostri segni e sono sottomessi. Allahu alladhi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwah ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Allah è colui che vi ha creati deboli, e quindi dopo la debolezza vi ha dato la forza, e dopo la forza vi riduce alla debolezza e alla vecchiaia. Egli crea quello che vuole, egli è il sapiente, il potente. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. Il giorno in cui sorgerà l'ora, giureranno i criminali di non essere rimasti che un'ora. Già mentivano sulla terra. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. Mentre coloro cui fu data la scienza e la fede diranno: voi rimaneste come è stabilito nel libro di Allah fino al giorno della resurrezione. Ecco il giorno della resurrezione, ma voi nulla sapete. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. In quel giorno le scuse saranno inutili a coloro che furono ingiusti, non saranno ascoltati. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. In questo Corano abbiamo proposto agli uomini ogni specie di metafora. Quando però porti loro un segno, i miscredenti diranno: non siete altro che impostori. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. Così Allah sigilla i cuori di coloro che nulla conoscono. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخف فإنك الذين لا يوقنون. Sopporta dunque con pazienza, o Muhammad. La promessa di Allah è veritiera, e non ti rendano leggero coloro che non hanno certezza.